L'acqua al pozzo andò, aveva tanta sete, per di più cadde giù, nell'acqua lo vedrete. Ti verrò a prendere. Pronto no, io sto arrivando. Sì. Simulo felicità quando incontro un falso amico. Simulo sorpresa quando si realizza quel che dico. Se non mi frega un cazzo simulo interesse, ma non simulo amicizia. Sono la N e la doppia S. Il mio fanculo è riservato a quelli come te. Fa parte del mio benvenuto a chi si crede il re. È tutto qui per sempre, non si può dimenticare. L'ho tatuato addosso proprio per ricordare. Senza l'uso di farmaci ho ricordi ermetici. Calcoli matematici per gli amici cosmetici. Li fate vivi dopo anni e fate simpatici. Fastidiosi come capi sintetici. Sciolgo amicizie nell'acido come un mafioso. Pianto radici nell'arido, sono orgoglioso. Ti credi il boss classico italiano, ma sei uno zero nell'asfalto metropolitano. Mi viene il singhiozzo, chi nomina il mio nome? Spero che non sia una testa di cazzo. Resti nell'ombra come un serial killer. Se voglio che parli, ti metto un braccio in culo come Rockefeller. Non nominare il mio nome in vano. La N è la doppia S contro un ciarlatano. Se il nostro nome si lega al destino, Giuda sarebbe stato più appropriato al tuo cammino. Stringimi la mano e vattene, oggi l'amico è un lusso. Come il diamante al dito di chi è sdraiato in un fosso. Bisognerebbe dare per avere do ud est. Ma questo non accade per gli amici di Ness. Non spreco parole senza un buon motivo. Bastano le cinque dita, linguaggio schietto e primitivo. Pollice su a chi più mi aggrada. Se non sei tra quelli spostati per farmi strada. L'indice è per chi straparla. Le tue cazzate sono indice di chi vuole spuntarla. Il medio è per chi mi critica dopo averlo ringraziato con la mia musica. L'anulare ha perso ormai la fede. Riutilizzarlo in questa vita sarebbe fuori sede. Infine il mignolo su cui porto un anello, simbolo di rispetto per Ness e che è gioiello. Non nominare il mio nome in vano. La N è la doppia S contro un ciarlatano. Se il nostro nome si lega al destino, Giuda sarebbe stato il più appropriato al tuo cammino. Nomina il mio nome come il paternoster e sciacquati la bocca con lo Jägermeister. Testa di cazzo, io non sono un condom. Per proteggermi da quelli come te faccio scansioni random. Sulla tua bocca sarò fastidioso come l'herpes. Quando nomini il mio nome in vano, sono Ness. Zero diritto a pronunciarlo come un'eresia. Per te sono il signor, chi che sia. I minuti contano, io conto i minuti. Tic toc, secondi passano preziosi. Le langette si accavallano, il tempo è inesorabile. Le ore passano incoscienti, che chi aspetta è vulnerabile. Senti il sapore della terra in bocca, l'odore del mogano, il velluto sulla faccia. Per me sei morto, tu mangi le per i vermi tutti i giorni. Seppellito nel mio prato, dove ci piscia Ronny. Non nominare il mio nome in vano. La N è la doppia S contro un ciarlatano. Se il nostro nome si lega al destino, Giuda sarebbe stato il più appropriato al tuo cammino. Qui qualcosa non torna, è quello che facciamo. Giudichiamo alle spalle di chi non conosciamo. Giro giro tondo quando è falso il mondo. Simula perfino